Europa 24. Buon pomeriggio. Il sistema fiscale negli Stati membri dell'Unione Europea tende a basarsi fortemente sulla tassazione del lavoro, che può deprimere sia l'offerta che la domanda di lavoro. E questa è la conclusione del rapporto della Commissione Europea che analizza le riforme fiscali dei vari paesi. Pertanto è giustificato, secondo l'esecutivo europeo, concentrare l'attenzione sui modi appropriati per spostare il carico fiscale dal lavoro ad altri tipi di tassazione che sono meno dannose alla crescita e all'occupazione, come i consumi, la proprietà e le tasse ambientali. Molti stati, tra cui l'Italia, dice la Commissione, appaiono avere sia una necessità potenziale di ridurre il carico relativamente alto della tassazione sul lavoro, sia lo spazio potenziale per aumentare le imposte meno discorsive. Gli altri stati sono Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Lettonia, Ungheria, Austria, Portogallo e Romania, in minore misura Germania, Estonia, Croazia, Lituania, Olanda, Finlandia e Svezia. Domani si terrà un incontro tra la commissaria europea al mercato interno Biankowska e l'amministratore delegato per il brand auto Volkswagen Diess. I ministri dei 28 discuteranno dello scandalo Volkswagen e faranno un primo punto giovedì a Lussemburgo al Consiglio europeo competitività. Il 6 ottobre si riunirà il Comitato Tecnico Europeo sugli autoveicoli. Ci spostiamo poi adesso a Barcellona. Abbiamo vinto e con noi ha vinto la democrazia, esulta, così lo state sentendo, Artur Mas, presidente regionale uscente della Catalogna, dopo il voto regionale che lui stesso ha voluto trasformare in un plebiscito sull'indipendenza catalana. Ma quali ripercussioni potrà avere il voto catalano in Europa? Potrebbe contribuire ad alimentare il vento indipendentista e autonomista che soffia in varie regioni del vecchio continente? Alessandra Schepisi lo ha chiesto ad Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo. Non enfatizzerei troppo la cosa, certo, il risultato va rispettato perché in democrazia il voto dei cittadini è sovrano. Non mi pare che però sia stato un trionfo di indipendentisti, quindi credo che si allontani l'ipotesi di una divisione dalla Spagna, anche perché poi, parlando chiaramente, la divisione dalla Spagna provocherebbe danni economici enormi al popolo catalano, sarebbe una vittoria dei leader politici, ma non una vittoria per il popolo, perché le imprese, le banche lascerebbero la Catalogna, perché la Catalogna uscirebbe anche dall'Unione Europea. Per rientrare nell'Unione Europea serve il voto unanime di tutti gli Stati membri, difficilmente ci sarebbe questo voto, non solo dalla parte della Spagna ma anche della Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna ha appena superato lo scoglio del voto scozzese, quindi mi pare che la situazione andrà a tranquillizzarsi a livello politico europeo. Certo, il governo catalano continuerà a alzare il prezzo con il governo centrale di Madrid. L'Unione Europea sostiene gli sforzi della coalizione per la lotta all'ISIS, ma non contribuisce alle attività militari, mentre invece è attiva sugli aiuti umanitari. Così Catherine Rey, portavoce della Commissione Europea sugli attacchi aerei francesi in Siria. Per quanto riguarda la crisi siriana, ribadisce, l'Unione Europea sostiene gli sforzi guidati dall'ONU per trovare una soluzione politica e mette tutto il suo peso politico per facilitare a trovare una soluzione. Italia e Spagna chiedono che le proprie lingue siano riconosciute nei bandi di concorso europei e il Tribunale UE accoglie il ricorso. Imponevano ai candidati di scegliere tra inglese, tedesco e francese come seconda lingua obbligatoria. Tre bandi di concorso pubblicati dall'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, l'EPSO, sono stati annullati perché discriminatori. Secondo Italia e Spagna, infatti, violavano il regime linguistico dell'Unione. Non solo imponevano la seconda lingua obbligatoria per essere selezionati, ma obbligavano anche i candidati a rivolgersi all'EPSO solo in inglese, francese o tedesco. Il rischio era quindi quello di avvantaggiare alcuni candidati e svantaggiarne altri. La Commissione ha cercato di giustificarsi evidenziando che le tre lingue sono quelle maggiormente utilizzate nell'Unione. Questa limitazione però, secondo l'Italia, va contro il regolamento europeo in materia. I cittadini dell'Unione hanno infatti il diritto di rivolgersi alle istituzioni utilizzando una qualunque delle 23 lingue ufficiali e di ricevere quindi risposte nella medesima lingua. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, nuovo appuntamento con l'Europa stasera in Effetto Notte. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.